suonava cattivo, annuvolando i rimproveri nel cervello. Il temporale era là ben lontano, controllavo la piega dei miei capelli. Avresti voluto stordirmi con un fulmine assassino come tuo pare distaccato. Annullare ogni carica dello sguardo, liberare grandine bruciante sulla mia faccia. Sono dietro il bavero del cappotto, il cappello è una grondaia di lamenti insistenti. Quando telefono il mio cane ha un sussulto, la voce d'ora di gatto mi agola in un mente. Penso che un tempo andavamo a scoprire quel brandy che tua madre lasciava invecchiare, gustoso come le premure del giorno di festa. Spirito orfano di carattere, anch'io mi lasciavo bere. Mi son tolto le scarpe sul guscio del tuo cuore, m'ha regalato una sciarpa, tremavano i piedi. Temperatura incontrollabile, inverno polare, cercando di riparare la caldaia ho smarrito gli arnesi. Sei l'unica testimone di ogni sconfitta, la guerra è perduta perché non ho eserciti da addestrare. I tuoi cannoni hai sterminato quel poco di raccolto che vent'anni di semina erano riusciti a fruttare. Auguri fin troppo sentito.